piangete, piangete, han tagliato i miei biondi capelli. Tu lo sai che eran ricci, eran belli. Giovanotti, piangete con me, oi sì sì, oi no no. Giovanotti, piangete con me. Oh, no, no. Oh.